la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Sono radunati tutti in piazza, di fronte alla chiesa. Qualcuno di voi sa dov'è lui? Qualcuno di voi ha visto lui? Allora, parlate! Pierfrancesco Favino è un attore, uno dei pochi italiani molto richiesti all'estero. Qui lo avete sentito nel film diretto da Spike Lee, Miracolo a Sant'Anna. Sono gocce di memoria. Favino è un attore molto bravo, recita molto bene, è simpatico, ha una moglie e due figlie e nella vita si spinge sempre un po' più in là. Il cinema assorbe la vita di Pierfrancesco Favino, che però non abbandona il suo grande amore, il teatro. Quel vagare per province tra nebbie e dialetti, quella voglia di scrivere, recitare, ridere, fare provini e poi partire. Così nasce Servo per due, in scena fino al 6 gennaio all'Ambra Jovinelli di Roma. Servo per due è un adattamento che è tratto da One Man to Governors di Richard Dean, che io ho avuto l'occasione di vedere a Londra 2 anni fa e che mi sembrava fosse il testo adatto per poter iniziare il percorso di questo gruppo di cui faccio parte, che è il gruppo Danny Rose. È una rivisitazione di Goldoni, ma è una rivisitazione in chiave totalmente moderna e che noi abbiamo ripreso, riadattato riplasmato rispetto a quella che è la nostra cultura e che sta avendo un enorme successo. La gente si diverte enormemente ed era una delle cose, se non fosse la cosa, che volevamo che avvenisse. Ecco, il gruppo Danny Rose di cui ha parlato, che gruppo è? Come nasce questo gruppo? No, il gruppo Danny Rose nasce in una maniera abbastanza casuale. Lo scorso anno abbiamo preso un piccolo teatrino romano che era la Sala 1, abbiamo fatto una rassegna di 29 spettacoli in 2 mesi, offrendo 2 spettacoli a sera, e da questa esperienza è nato questo gruppo di 40 persone tra attori e registi, che hanno poi iniziato un'attività seminariale che riguardava clownerie, commedia dell'arte, acrobatica e canto, che avrebbe dovuto sfociare in questo spettacolo. Da questi 40, insieme a Paolo Sassanelli, che è il co-regista di questo spettacolo, abbiamo scelto 23 persone che si alternano in 2 cast nell'andamento di tutta la tournée. Per far partire lo spettacolo, Favino e gli altri del gruppo Danny Rose hanno fatto un seminario, poi hanno fatto delle lezioni di acrobatica, di mimo, clownerie. Alla fine hanno scelto un cast di 23 attori che sono entrati nello spettacolo. Uno spettacolo, quello di Servo per due, che permette a Favino di tornare dunque al suo primo amore, il teatro. Sì, in realtà è tanto tempo che non avevo avuto la possibilità di stare sul palcoscenico. Da quanto? Insomma, fatto salvo l'esperienza dello scorso anno di questa rassegna, erano 7 anni. E in questi 7 anni, nonostante io ami enormemente il cinema, la televisione, e ovviamente sia grato di tutto quello che mi ha dato e mi sta dando, la mancanza del palcoscenico l'ho sentita tanto. E questa cosa qui, tra l'altro, mi dà la possibilità poi di andare nei piccoli centri, magari in provincia, dove magari stanno chiudendo le sale cinematografiche, ed è anche un piccolo modo per ringraziare l'affetto che generalmente mi viene dato dalle persone che incontro. Perché lei è uno che suscita grande simpatia nelle persone, quindi il fatto, forse è un premio che le arriva perché lei stesso è interessato alle persone quando... Ma questo sì, è vero, la ringrazio, non ho mai pensato in questi termini, però sì, nel senso che insomma che credo di mantenere un rapporto molto diretto con quello che faccio, anche perché insomma nessuno mi ha messo una pistola alla tempia per tentare di diventare attore, cioè, questa cosa qui tra l'altro piace alle persone non vedo perché dover avere degli atteggiamenti di fastidio piuttosto che di divismo, che non saprei dove appiccicarmi, per cui per me è molto più semplice essere quello che sono che non dovermi inventare un me stesso snob, fastidioso o infastidito, ancora peggio. Sarebbe divertente, però non lo saprei fare, mi farebbe una fatica enorme, non sarei in grado. Lei in effetti, cioè, lo voleva proprio fare l'attore, perché dice come la tenacia c'è stata. Sì. No, non volevo dire questo, lo dico. Che cosa diceva allora? No, dico che comunque mentre alcuni attorno ai 20 anni hanno le idee confuse, per cui si buttano, fanno architettura, poi smettono di fare architettura, fanno biologia e alla fine finiscono per caso, no, a fare qualcosa di tra virgolette artistico. Lei invece è stato proprio determinato nelle sue scelte sin da giovane? Beh, sì, però appunto accompagnato poi da quella inconsapevolezza anche che è giusto avere a quell'età, però in coscienza. Io ho avuto la fortuna di essere stato preso all'Accademia d'Arte Drammatica e insomma, frequentare una scuola tra i 18 e i 22 anni, i 21 anni, avere la fortuna di incontrare i maestri che ho avuto la fortuna di incontrare io, è sicuramente una cosa che ti fa capire se vuoi veramente intraprendere una strada che per sua definizione è precaria, per cui sicuramente ho potuto misurare se c'era una vera passione dietro a questa cosa qui. Però sì, insomma, il desiderio di fare l'attore o di appartenere a questo mondo c'era moltissimo, nonostante nessuno della mia famiglia ne appartenesse a questo ambiente. E la sua famiglia, che famiglia è la sua famiglia d'origine? Una famiglia estremamente normale, medio borghese, dove la mamma faceva la mamma di 4 figli, il papà lavorava come rappresentante edile, per cui però insomma con un'attenzione loro alla musica, al teatro, al bello in generale, insomma. Quindi non l'hanno mai ostacolata nella sua scelta? Sì, certo che sì. No, ostacolato forse troppo, però si sono forse spaventati di quello che era un futuro sicuramente meno certo, almeno all'epoca, di qualcuno che poteva esibire una laurea. E cosa volevano invece loro? Cosa si aspettavano? Ma no, volevano che io fossi tranquillo nelle mie scelte, ma da genitore lo capisco. Poi quando hanno visto che, insomma, che ero disposto a fare salti mortali pur di farlo, si sono da una parte rasserenati, dall'altra parte mi hanno dato fiducia. Lei di quattro figli in che posizione? L'ultimo. Quindi l'ultimo, più piccolo e più protetto? Ma insomma, l'ultimo con 3 sorelle, per cui no, insomma io credo che gli ultimi figli beneficino un pochino della stanchezza dei genitori, cioè, e quindi forse hanno un po' un laccio un po' più sciolto. E le sorelle però non glielo tenevano un po' stretto il laccio? Sì, sì, insomma, non in termini protettivi. No, poi insomma, io sono nato nel 69, per cui insomma c'erano ancora degli squilli di femminismo. Fantastico. E quindi insomma, mi sono sempre fatto il letto da me, ecco, diciamo. La prima volta. La prima volta. A parte che gli anni passano per non ripassare più. La prima volta di Favino ha inizio dunque dopo il liceo, quando decide di iscriversi all'Accademia. È lì, grazie alla sua passione, che impara. Un film dietro l'altro e Favino arriva ad essere una star internazionale. Ma, dirà lui, non era quella l'ambizione. In realtà non era la mia finalità, nel senso che già non è che ho pensato io voglio un giorno diventare qualcuno che poi le persone pensano sia questo e quest'altro. Io penso che ogni persona che lavora nell'ambito culturale o artistico, che è una parola che mi fa un po' paura dire, ha un percorso all'interno del proprio lavoro, che è un percorso di espressione di sé, e quindi per me questo lavoro è quello che può essere il percorso di un pittore, che può essere il percorso di un musicista, cioè un percorso di comunicazione, di espressione di sé. Ogni artista o ogni persona che fa comunicazione sceglie il proprio mezzo per dire che cosa pensa della vita, del proprio mondo. E quindi in questo senso poi quello che diventa per gli altri è sì importante, perché era cartina di tornasole dell'essere riuscito o meno a comunicarlo, ma non è l'obiettivo primario. Io quindi ogni persona che ho incontrato rimane in questo mio percorso, perché che sia stato positivo o apparentemente più stimolante all'inizio e magari un po' meno alla fine o viceversa, io sono diventato, cioè sono dove sto in questo momento dal punto di vista creativo, dal punto di vista di espressione, grazie a tutti gli incontri che ho fatto, ma non dal punto di vista del successo, perché quella è una cosa che comunque non saprei misurare, perché il mio successo personale è quando riesco con semplicità a dire le cose che magari complesse che avrei potuto voler dire, e se guadagnare in questa sensazione di libertà espressiva, non di share piuttosto che di denaro, piuttosto che non di popolarità, nonostante sappia che non solo ben accetta ma è importante nel nostro percorso, sarei ipocrita a non saperlo. Senta. Però credo che questo sia una cosa che poi le persone percepiscono. Io poi penso che questo sia quello che le persone si aspettano, nel senso che per carità, insomma, riparto dal discorso di prima, è chiaro che il successo è un grandissimo beneficio, però non può essere l'obiettivo. Mentre se l'obiettivo è invece il lavoro, può capitare per incidente, un incidente sicuramente molto, molto fruttuoso e ben accetto, che ci sia il successo. Senta, lei, le faccio questa domanda strana, però devo dire, io ho degli amici veneti che apprezzano molto il suo modo di parlare, cioè è l'unico romano che riesce a parlare perfettamente. Il Veneto. Come fa? Cioè, cosa fa? Ha studiato, studia molto. Ma io sono sempre stato molto, molto attratto, a parte dalla musica, e dai suoni e dai rumori. Da quando, veramente da piccolo, e penso che l'orecchio sia il senso che ho più sviluppato di imitazione della realtà circostante, e però poi per questo motivo qui, se vado in un posto viaggiando, cerco di replicare i suoni e rumori di quel posto, e replicando quei suoni e rumori mi rimane dentro una sensazione, un'impressione, un modo di pensare anche, per cui non è solo imitativo, ma è mimico. Quindi lei, quando racconta qualcosa a un suo amico, tende anche a rifare l'accento della persona del posto? Sì, certamente. Anch'io lo faccio. Esatto, è un istinto, in realtà, un istinto molto naturale. Poi un po' viziato dal buon comportamento, no? Non si dovrebbe, però per me è sempre stato un istinto molto molto naturale, ma proprio un interesse nei confronti della realtà, cioè i suoni sono sempre stati una cosa che mi hanno attratto enormemente, veramente me lo ricordo da piccolo piccolo piccolo piccolo. Perché cosa faceva da piccolo? Imitavo, ancora oggi, cioè io sento un suono particolare, provo a riprodurlo, non c'è una ragione logica. Però la cosa bella che ho scoperto, o almeno utile per me, che ho scoperto facendo questa cosa qui da attore, è che poi ti riporta ad un'anima di quel suono lì. Insomma, poi io rispetto al dialetto, agli accenti, credo che l'Italia sia ancora un paese più riconoscibile dal punto di vista popolare, che non dal punto di vista della lingua non emotiva, che è l'italiano, per cui le persone poi hanno un legame più diretto con una persona che parla come parlano loro per strada, che non con qualcuno che parla in punta di forchetta, almeno che insomma, lo stile della cosa che non si sta recitando, piuttosto che il personaggio, non debbano essere portati. trattati in quel modo. Per Favino, ma questo lo si vede ogni volta che lo si incontra, la cosa più importante è la voglia di divertirsi, come quando da Crozza va a fare il camorrista. Cioè siamo gente riservata, cavolo, si capisce pure dai nomi, no? Non so, cioè sono normale, non so appariscendo per niente, santo canne schiavozzo. Puzzo sanguinario, Donino Bazzuca, Fernanda Mattanzi, che ci vuole dire? Cioè, io personalmente ciccio un dolotto. Cioè, a Casale di Principe la gente non si è mai lamentata, nessuno di quelli ancora vivi, nessuno. Pier Francesco Favino, il ragazzo romano che al liceo si divertiva a far ridere i compagni, è l'uomo che sul set inventa scherzi, è dunque cresciuto e lo vogliono a Hollywood. Ma loro hanno una capacità di distinguere nettamente la vita privata da quella lavorativa, che è un po' per noi latini una cosa un po'... Cioè? Beh, insomma, noi siamo molto più tendenti a voler creare relazioni e loro, invece, per loro l'ambiente lavorativo ha a che fare con ciò che fanno e ciò che sono, giustamente, da un certo punto di vista, lo dedicano esclusivamente alle persone con cui realmente costruiscono relazioni. Okay. Magari io sono stato antipatico. No, perché? No, così ti dicevo. Non ci posso credere. No, loro sono stati sempre molto carini con me, però fa parte della loro cultura essere carini. Però sicuramente credo sia molto più attraente anche per loro nel momento in cui tu non appartieni al loro ambiente, così come è per noi, cioè la curiosità di qualcosa che non fa parte. Sì, nel momento nuovo... in cui tu diventi uno dei tanti, e lì sei veramente uno dei tantissimi che ci sono. Poi c'è una media altissima di capacità di attori, cioè Los Angeles è una città abitata prevalentemente da gente d'attore. Che vuole fare quello, che va lì perché vuole diventare non un attore, una star. E a me quella mentalità non mi appartiene e un po' mi spaventa, cioè io non faccio questo mestiere perché dovevo diventare famoso. Tu lo fai perché? Perché mi piace farlo. Perché mi diverto quando sto sul set, perché mi piace raccontare le storie, perché mi piace mettermi in crisi nel momento in cui c'è un nuovo personaggio da affrontare, perché quando sto là sto bene. Il successo è una variante abbastanza impazzita che se hai la fortuna che ti capiti è meglio, ma se non c'è e tu comunque hai una possibilità lavorativa in questo ambiente, non ti dico che è lo stesso, però va bene. Va bene uguale. Invece andare lì e... dover per forza diventare il numero uno è una cosa che a me non appartiene. 1, 2, 3, 4. La prima volta termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Se volete potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Potete riascoltarci in podcast. Buon Natale a tutti. Da Cristina Carpinelli. Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume, son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma, una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura. Un magnete sul frigo, un quaderno di appunti, una casa, un aereo che vola. Baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Baciami ancora, voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Una bimba che danza, un cielo, una stanza, una strada, un lavoro, una scuola. Un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce. Un respiro profondo per non impazzire, una semplice storia d'amore. Un pirata, un soldato, un dio da tradire, l'occasione che non hai mai incontrato. La tua vera natura, la giustizia del mondo che punisce chi ha le ali e non vola. Baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano, una